Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. Di DJ Telespero. Buon pomeriggio da Giorgio Telesforo e oggi diamo il via al nostro soundcheck presentandovi in apertura di questo appuntamento il numero 127 della nostra prova del suono due bellissime ragazze più o meno contemporanee, classe 1982, la bellissima Valerie June con questa chioma meravigliosa fatta di dreadlock che poi vengono avvolti sulla sua testa come un turbante, e un'altra bellissima ragazza inglese arriva da Birmingham, classe 1986, Laura Mvula, che oggi è una delle protagoniste dell'attuale scena contemporanea lì in Inghilterra. Allora, Valerie June nasce a Jackson nel Tennessee, si sposta prestissimo a Memphis per seguire la sua famiglia, per seguire il suo papà che è un promoter di musica, e quindi i primi lavoretti li fa proprio seguendo il padre, attaccando i manifesti dei concerti organizzati dal papà. Ascolta musica e infatti si risente poi nelle sue produzioni questo miscuglio di varie influenze che vanno dal folk del sud degli Stati Uniti al blues, al gospel, soul music e country. Mette su un duetto a 19 anni con suo marito, poi le cose sentimentalmente non vanno tanto bene, quando lascia il marito inizia a intraprendere la carriera come solista, realizzando delle autoproduzioni, due album da indipendente, per poi registrare questo disco che sta ottenendo grandissimi consensi fra gli appassionati di blues contemporaneo, album intitolato Pushing Against the Stone, tutte composizioni di Valerie June che apprezzeremo fra pochissimo qui al soundcheck, e subito dopo ascolteremo una composizione di Laura Mvula, lei invece, come dicevamo, del 1986, nata a Birmingham in Inghilterra, studia musica, si diploma al conservatorio, suona molto bene il pianoforte, scrive tutte le sue canzoni e ha realizzato da pochissimo questo album splendido intitolato Sing to the Moon, con il quale si è anche aggiudicata una bella nomination all'ultima consegna del Mercury Prize, premio vinto poi da James Blake. Allora, Valerie June qui al soundcheck con Wanna Be On Your Mind, e subito dopo Laura Mvula con la bellissima She. Gentlemen, you're listening to Soundcheck. She walked towards you with her head down low. She wondered if there's a way out of the blue. Who's gonna take her home this time? She knew that this time wouldn't be the last time. Il sound contemporaneo della bravissima Valerie June con Wanna Be On Your Mind, e poi la bravissima Laura Mvula, nuova star della discografia inglese di oggi, album indipendente ma distribuito dalla Sony Music. Sound check. Il suono della musica. Seven seconds away, or just as long as Cherry l'abbiamo conosciuta così, perlomeno in tutto il mondo. Il successo planetario di Seven Seconds con la partecipazione di Yu Sundur portò il nome di Nene Cherry alla ribalta anche delle classifiche internazionali. Nene Cherry, figlia di un percussionista della Sierra Leone e di una pittrice svedese chiamata Monica Carlson, che poi in seconde nozze sposò Don Cherry, celebre trombettista molto attivo negli anni 70 nel free jazz, musicista che portò ben presto Nene Cherry in tournée in giro per il mondo, fra l'Europa e gli Stati Uniti, facendole ascoltare non solo l'avanguardia del jazz di quel periodo, ma anche i fondamentali che arrivavano dal blues, dalla soul music e dall'R&B. Anche se poi Nene Cherry, stabilendosi in Inghilterra intorno alla metà degli anni 80, inizia a muoversi musicalmente in un ambiente più vicino alla new wave e alla punk music. Si sposa, divorzia dal marito batterista di una band rock, per poi iniziare la sua carriera come solista, ottenendo anche un ottimo successo con una canzone di protesta che scrisse proprio contro la guerra delle isole Falkland. Il successo prosegue con un'altra versione di I've Got You Under My Skin, la celebre canzone di Cole Porter, che viene inserita in un album benefico di raccolta fondi per la lotta all'AIDS, e quindi Nene Cherry inizia la sua strepitosa carriera che raggiunge poi l'apice nel 94 con la grande popolarità ottenuta col duetto insieme a Yu Sundur e Seven Seconds che abbiamo appena finito di ascoltare qui al soundcheck di Radio 24. Ma perché vi stiamo parlando di Nene Cherry? Perché Nene Cherry arriva prepotentemente con un album nuovissimo, molto interessante, un album dalle sonorità molto dure, un album tosto dove spiccano delle linee di basso sintetico che fanno vibrare le casse dei nostri impianti stereo, soprattutto in macchina, ma un album che noi vi vogliamo proporre perché Nene Cherry dimostra ancora una volta di essere un artista all'avanguardia. Eccola qui, l'album nuovo si intitola Blank Project, Nene Cherry con la partecipazione di Robin in una sua composizione intitolata Spit Three Times. Nene Cherry al soundcheck di Radio 24. You were gone, out of my life. I'm not surprised, clever disguise, but you're like a demon. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24, dove torna la musica del bravissimo Beck, all'anagrafe Beck Hansen, compositore, chitarrista, cantante americano nato a Los Angeles l'8 di luglio del 1970, tra i principali esponenti di quel genere che potremmo definire indie rock e in particolare lo-fi. È un musicista dotato di grande personalità, estremamente versatile da un punto di vista stilistico, che è riuscito a ricevere il plauso unanime della critica ma anche un largo consenso di pubblico, riuscendo a mettere d'accordo almeno un paio di generazioni di appassionati di musica. Ecco, la musica di Beck è un collage di varie culture, varie influenze che vanno dal pop junk, l'utilizzo di testi ironici, arrangiamenti postmoderni, utilizza anche strumentazioni molto particolari in studio di registrazione e resta senz'altro uno degli artisti più interessanti del rock alternativo degli anni 90. E quindi, sebbene il suo lavoro non sia facile da descrivere, il suo eclettismo e la sua tendenza alla sperimentazione hanno brillato fin dagli esordi, e Beck così traccia il suo percorso stilistico sulla base di scelte molto originali, destando a volte scalpore fin dai suoi primi approcci con il grande pubblico, e oggi conferma la sua vena creativa con un album splendido intitolato Morning Face, dal quale gustiamo un brano intitolato Heart is a Drum. Back al soundcheck di Radio 24. E dalle sonorità di Beck a quelle di Dafur Youssef, musicista tunisino che oggi rappresenta una delle espressioni più importanti sulla scena musicale contemporanea attraverso il suono del suo strumento, l'oud, il liuto arabo, strumento con il quale compone musica anche abbastanza complessa, improntata alla tradizione sufi, alla musica mistica devozionale, pur restando aperto alla musica di altre culture, in modo particolare al jazz. Dafur Youssef ha collaborato anche con il nostro Paolo Fresu e in qualche modo ha aperto una nuova strada, ecco, la strada ad una nuova modalità per poter apprezzare le contaminazioni fra Oriente e Occidente, seguendo il lavoro svolto 20 anni fa dal grande cantante pakistano Nusrat Fateh Ali Khan, che fu prodotto anche da Peter Gabriel per la Real World. Ma qui parliamo di Dafur Youssef, che chiude il soundcheck di oggi con un album meraviglioso, splendido, si intitola Birds Requiem, prodotto per la OK distribuzione Sony. Il brano è Fuga Irundinum. Quindi buon viaggio con Dafur Youssef, buona giornata e buona musica da GG Telesforo. Check, il suono della musica.